Il camino spento mi rassicura. E poi qui non fa freddo. No, non sarà difficile da qui. Il carro è pronto. I bagagli sono rimasti lì. Molti gioielli, molti scudi. I fedelissimi di Stefano e la mia Parmenide sono lì. Qui il necessario. Il pugnale, la corda, lunga e resistente. Questo punto dovrebbe tenere il mio peso. Queste mura non le conosco. Dove sono? Tutto è bagnato. Ho freddo. Non sento nient'altro che freddo. Sta sorgendo il sole. Ma dove ho passato la notte? Perché non ho quasi niente addosso? Come ci sono arrivata fino a qui? Dov'è mio marito? Dove sono i miei figli? Non vedo il mare. Non vedo il mare. Non vedo il mare. Non vedo il mare. Sono pronta. Ma la corda è caduta. Ora potrò solo con il pugnale. Che bell'oggetto. Mi fa orrore, non posso toccarlo. Devi, se dovrai usarlo. Contemplalo nella sua forma, nell'assoluta presenza di quest'istante. Scaccia dalla mente l'uso che ne farai. Vuota forma neutra dagli svariati possibili contenuti. Sì, ecco, ora potrei impugnarlo. Potrei sfiorarne la lama con attenzione. Atena mi darà il coraggio, mi darà la determinazione. Oh, Atena, non essere gelosa delle mie cure per Afrodite. Solo tu puoi aiutarmi ora. Dammi il coraggio, dammi la determinazione. Con te vicina non sarà difficile. Non devo fermarmi. Non devo fermarmi. Gelosa delle mie cure per Secondo Afrodite. Il sole deve andare di qua. Tu puoi aiutarmi. Arriverà la spiaggia, dammi non posso essere lontano da casa. Con te vicina non deve essere andata difficile. Così. Mi sarò messa a correre verso il bosco per sfuggire a un eccesso d'ira di Periandro. Sì. Periandro. Sono ancora caldata per la corsa. Ma perché verso i boschi? Corro sempre verso il mare. Che stanchezza. Non ce la faccio. Periandro. Che dolore. Mi fa tutto male. Le doglie. Sì, sono cominciate le doglie. No, il parto no, non ancora, ma Demetra, era, aiutatemi. E dove sei, amore mio? Dove siete tutti? E se tradissero Stefano? Se fossero stati corrotti da Apollodoro? Impossibile. Certo che a Stefano converrebbe consegnarmi. Come mi sento meschina a pensare. Non sarà facile fuggire, anche se il carro è già pronto. Fa freddo, sento solo freddo, freddo. Questo camino spento non serve a niente. Avrei dovuto fare da sola, sì. Come quando sono fuggita da quel porco bastardo di Frignone. Allora sì, ho potuto contare sulle mie fedelissime. Ero giovane, bella, altra energia, vitalità, curiosità. Ero acqua, acqua alla sorgente di un monte ripido. Che monte? Quale monte? Sai che non lo saprai mai. Ma perché sei fuggita, Melissa? Perché sono fuggita senza una meta? Perché sei così meschina, Nera? Perché sono così meschina da dubitare di Stefano? Prendi sempre la tua conchiglia quando sei sola, Melissa. Dov'è la tua conchiglia? Ho il pugnale. Hai il pugnale, Nera. Mi spaccherò il petto se Apollodoro vince. Perché mi odiano tanto? Perché ti odiano tanto, Melissa? Ne avrò la forza. Ne avrai la forza, Nera. Che altri mezzi ho? Hai qualche elemento, Melissa? Ho qualche elemento per pensare che le concubine mi odino. Che ne sarà di Fano? Chi la proteggerà quando io non ci sarò? Di che sto parlando e perché penso questo? Perché? Perché non ho approfittato dell'abilità delle levatrici per abortire? Perché non ho qui davanti a me una concubina da interrogare? Perché una come me non ha diritto di essere madre quanto le Melissai di Demetra? Ti ama, Periandro. Allora perché non è qui con te? Ti sta cercando? Ma che incubo è questo? Sono in svegliati. Un sogno. Svegliati. Svegliati. Svegliati. Svegliati. Svegliati. Svegliati. Piccola Fano, eri così bella, bellissima, come tua madre. Ti ho partorito senza dolore. Le doglie erano... mi procuravano riso, sì, ridevo. Hai ancora la mia bambola di pezza, il tuo primo giocattolo. Quella bambola me la fece una giovane schiava quando Nicareta venne a comprarmi. Avevo 6-9 anni. Piangevo. Strillava quella bambina attaccata alla giovane schiava da cui non volevo separarmi. Nicareta voleva convincermi a seguirla con una bellissima bambola di legno profumato, quello che si usa per le barche. Ma la bambina niente, io niente. Strillavo convulsamente fino a restare senza respiro, con gli occhi pressati fuori dalle orbite, la vista appannata dalle lacrime, tutta abbarbicata alla giovane schiava. Lei tagliò il suo scialle? Sì, tagliò il suo scialle di porpora e all'istante fece un sacchetto che riempì con lana di pecora e con i fili di seta sfilati dal suo vestito lo divise in modo da fare le gambe, le braccia, la testa, legando gli inguini, le ascelle, i gomiti, i polsi, le caviglie, il collo. Col resto dei fili fece i capelli, sì. Poi prese un carboncino e disegnò occhi grandissimi, naso e bocca. Poi con un altro pezzo del suo scialle vestì la bambola e me la porse. Ha le pentrutine. Non parlava la mia lingua, sì. Tienila, è per te. Ero estasiata, attonita. Avevo smesso di piangere da un po'. Non piansi più, sì. Stringevo la bambola, sì, e guardavo la giovane, il suo sorriso, o il sorriso della bambola, o quello di Nicareta. La mano calda di Nicareta, la bambola morbida al petto. No, per mano... La giovane scomparire. Ah, Fano, ti guardavo estasiata, attonita tra le mani della levatrice che ti tendeva verso di me. L'immediato istinto di proteggerti. Non l'ho sentito così potente e selvaggio per i tuoi fratelli. Padre, padre, amatissimo padre. Ricordi? Ricordi quando me l'hai presentato nel nostro giardino più bello? Una figlia deve assecondare il volere del padre. Non desidero altro che assecondarti, padre. Non ho mai desiderato altro che farti felice. Ricordi? Io servivo da bere i nostri operai e lui mi guardava. Che paura mi faceva il suo sguardo. Ma no, io lo guardavo. Che attrazione. Ma era la sua o la mia? E la domanda, sì, la domanda di matrimonio. Io, sempre secondo i tuoi desideri, padre. Desideri? Desideri di chi? Quali? I miei? Io mai mi sono chiesta. Cosa desideri per il tuo compleanno, mia prediletta Liside? Un cavallo, veloce come il vento e fedele come la mamma. Ogni tuo desiderio è legge per me, Liside, mia giusta e buona. Io pensavo. Desideri qualcosa, un cavallo, un vestito, un bel fermaglio. Periandro desidera me. Mi dice ti voglio, Melissa, mia, mia, mia, all'infinito mia. Me lo dice disperatamente, mi morde, succhia il mio sangue, entra in me come se dovesse lacerarmi ogni volta. Melissa, miele, pura, fedele, laboriosa di Periandro. O Liside, buona, giusta, pacificatrice di mio padre Procleo. Ma come mi chiamo? Chi sono? Sono? Sono? Ti maledico, Apollo d'Oro. Tu, cittadino di fresca data, vuoi che nessun altro goda dei diritti che tu hai già acquisito. Tu vedi la sicurezza di uno Stato solo nella potenza dell'esercito. Tu pretendi che l'indennità per i più poveri sia invece versata per le spese militari. Molto ricco Apollo d'Oro, pur avendo intaccato ampiamente la fortuna di suo padre per simposi e cortigiane, ma poi si è messo in politica. Concubine malefiche. Arricchito conservatore moralista, sempre dalla parte della guerra. Hai paura di guardarti indietro? Sì, parlare con una concubina. Abbiamo le cortigiane per il piacere, le concubine per le cure di tutti i giorni e le mogli per garantirci una discendenza legittima e una fedele custode del focolare. Ottuso opportunista, e gli altri figli? Sì, parlare con una concubina. Oreste è stato assolto da Atena per il suo matricidio. La madre non è più madre di sangue da un pezzo. Di chi è allora un figlio illegittimo? Non ho mai umiliato una concubina. Di chi è allora un figlio illegittimo? Quanti e quali ateniesi possono permettersi una tale poligamia? E perché permettersela senza responsabilità? Proprio i cittadini più ricchi e con più diritti e più potere. Anche se regina. Signori giudici, Apollo d'Oro è straniero come mia figlia. Come mia figlia è nato ad Atene da uno straniero ex schiavo come me. Ma suo padre è un ricchissimo banchiere. Perciò loro sono stati naturalizzati ateniesi e io e mia figlia no. Non mi sono mai vantata, mai umiliato una concubina. Ma Apollo d'Oro chiede la perdita dei diritti politici per mio marito perché ha dato in sposa a un ateniese la figlia di una straniera, ma anche suo padre uno straniero. Fano è stata ripudiata due volte. È stata accusata di prostituzione, giacché mia figlia. Questo è un disonore soltanto mio, signori giudici. Come mio è l'onore di essere madre e moglie onesta. Questo dovreste considerare, non il mio passato, che è il lago in cui mi sono trovata e che un politico senza scrupoli usa per vincere la sua guerra contro mio marito. Dovreste considerare il presente che ho scelto. Sono acqua, signori giudici, acqua senza memoria delle proprie origini. Acqua, avanzo, scavo anche la pietra, acqua. Mi adatto a qualsiasi percorso. Acqua, acqua. Ma da quando amo Stefano? Sono una moglie. Da quando Stefano ha intrapreso la sua carriera politica, non ha più avuto bisogno dei miei soldi, ma dei miei consigli. Acqua. Mi accusate di essere troppo libera? Sì, sono così libera da poter cambiare radicalmente la mia vita. Acqua. Dovreste portarmi ad esempio, sì. Acqua. Dovreste portarmi ad esempio e darmi una cittadinanza onoraria. Acqua. Darla almeno ai miei figli. Sì, darla almeno ai miei figli. Sì, sì, sì, voglio. Chiedo, signori giudici, una cittadinanza per i miei figli. Acqua. Non mi sono mai vantata. Non ho mai umiliato né un'ancella, né una schiava, né tantomeno una concubina. Sono sempre stata riservata e fedele. Voi concubine andate sparlando di me. Ma deve essere partito tutto da lei. E perché? Non ti basta essere la sua preferita? Ecco, ora ricordo. La mia ancella più fedele mi ha detto: stai attenta, Melissa. Stai attenta, Melissa, ci sono donne ambiziose. Demetra, aiutami. Tu che ci proteggi quando siamo gravide, tu che benedici i nostri figli legittimi, tu che rendi feconda la terra, tu che ci insegni a coltivarla, tu che ci inizi a vivere civile, tu concedimi di rivedere i miei figli come Zeus ti concesse la tua coro, non riuscirò a partorire. Però sono stata convincente, no? E se mi difendessi da sola? Potrei ancora sedurre i giudici. Sono ancora bella. Valgo ancora tante, tante, tante, tante dracme. Schiava, cortigiana, concubina, madre, moglie, ma resto sempre una straniera. E se vincesse Apollo d'oro? No, schiava no. Adesso cammina in direzione del mare. Devi uscire da questo bosco. Ti tornerò a casa. Partorirai assistita dagli ancelli, amata dai tuoi figli, da Periandro. L'ultima volta che ho partorito non ha rispettato il tempo necessario. Io urlavo dal dolore, lui si eccitava sempre di più e ho ricominciato a sanguinare. Ma mi ha chiesto scusa. Mi ama. Sì, mi ama. Mi ama, mi ama all'infinito, mi ha accarezzato per ore. Poi ha ordinato ai soldati di fare la guardia per il tempo necessario finché mi ristabilissi. Di non farlo entrare, anche se li avessi minacciati di morte, che sarebbero stati giustiziati se avessero trasgredito l'ordine. Mi ama. Beh, lo so. Con me ha sposato la via verso l'Oriente, una base marittima sul Golfo di Egina per la sua Corinto, ma è così che fa un uomo saggio, amato dal suo popolo. Mi ama. Mi ama. Licofrone, figlio, ama tuo padre. Rispettalo, gli succederai. Non è selvaggio e bestiale come tu pensi. Anche se mi hai vista piangere, io non sono la sua vittima. Sono la sua amata. Lui mi rende felice. E se mai mi accadrà qualcosa per un suo impeto di collera, non considerarlo colpevole. La legge per prima assolve chi è preda dell'ira. La mia fragilità di donna sarà l'unica colpevole. Niente peggiore del senso di colpa. No. No, non io, non tu. Ma lui sarà l'unica vera vittima per il dolore di non avermi più. E il senso di colpa gli toglierà il sonno e la pace. Apollo d'oro. Non l'ira tiranneggia l'anima. Soprattutto quella dei tiranni. Che non subiscono alcun limite. Perché sono uomini. Superiori per la loro saggezza. Non c'è niente al mondo di più sanguinario della tirannide se continua così. Perderà il consenso popolare. Gli bastavano le persecuzioni, le esecuzioni arbitrarie contro i cittadini, anche questa umiliazione alla città. Far spogliare tutte le donne. Ha spogliato gli uomini delle armi e le donne dei loro vestiti e degli ornamenti. Il tiranno vuole la città nuda. Cos'è veramente democrazia? Ma per farsi perdonare, per ottenere i miei favori. Sapere dove era il tesoro. Solo questo voleva da me. Solo questo. No, no, non sono stata io. Non ho fatto niente. Il tesoro dov'è? Non posso dirtelo. Periandro, Periandro, mi hai scelta perché sapevi che non l'avrei detto a nessuno prima del tempo. Tu eri d'accordo, Periandro. Ma come puoi pensare che la tua Melissa... Lasciami, lasciami, lasciami, lasciami, lasciami! Simone, Senoclide, Ipparco, poeti, attori, filosofi, oratori, ricchissimi da ogni dove... Timanori e Lucrate che mi hanno comprata per scoparmi insieme. Mi hanno pagata moltissimo. Io valgo quanto il padre di Apollo d'oro, pur non sapendo dirigere una banca. Frignone mi ha portato ad Atene per trascinarmi di simposio in simposio. Finalmente ad Atene. Amo la vita, l'ho sempre amata. Grandi filosofi avevano il piacere di conversare con me, di godere con me come con nessun'altra. Quanti? Innumerevoli. Innumerevoli. Alla fine non ne potevo più di quei festini. Mi annoiavo. Ma Frignone mi voleva con sé. Sempre, sempre, sempre oggetto del suo prestigio. Così tutti lo ammiravano e lo invidiavano. Sono scappata da Frignone. Poi la guerra. Finalmente Stefano. Stefano, raggiungimi. Dimmi che succede. Che devo fare? Non tradirmi, non essere vigliacco. Non permettere che sia venduta come schiava. Proteggi tua figlia. Non è la prima volta che un uomo politico ha figli con una straniera. Tua figlia è ateniese. Ha il diritto di sposare un ateniese. E a te non possono toglierti la tua carriera. E anche se fosse. Non ci perdere, non ti perdere. Non dimenticare che la tua famiglia mi ha accolta. Fano no. Non è stata altrettanto fortunata col suo primo marito. Vigliacco schifoso disonesto. Ti sei tenuta una fortuna di dote. Già, mia figlia è abituata a un tenore di vita troppo alto e figlia di Nera, la più richiesta e pagata cortigiana ad Atene, Corinto, Megara, troppo indipendente, troppo libera, per nulla remissiva e obbediente la fanciulla. Sì, troppo libera per essere una moglie, una fedele custode del focolare. Maledetto tu sia, maledetto Apollo d'oro, se vinci la causa, no, non tornerò schiava. Non sono più bella, non valgo più tante dracme, non sono... Ora sono una moglie, una madre. Madre, madre, madre, dove sei? Madre, madre, dove sei? Il mare, lo sento, come dalla mia conchiglia. Sole, quasi caldo. Una lince. Demetra, Diana, conchiglia, non ti avvicinare. Demetra, Diana... Conchiglia, ferma. Demetra, Diana, conchiglia, immobile. Bambina mia, avrei dovuto proteggerti anche da tuo padre. Avrà pur recuperato un'altra dote con quel trucco di sorprenderti a letto col ricco straniero di passaggio. Lo facevamo da giovani, io e lui. Tu e tuo padre me l'avete nascosto. E adesso Apollo d'Oro dice che tuo padre ti ha fatto prostituire. Anche tu come me sei. Io e tuo padre abbiamo persino detto che non sei mia figlia per riuscire a... Ma è così difficile diventare cittadini ateniesi. E io ci ho provato fino alla rovina. Chi l'avrebbe mai detto che non ce l'avrei mai fatta a diventare una vera moglie, persino sposando un ateniese? Demetra, Diana, conchiglia, la lince si allontana. Demetra, Diana, conchiglia, se ne va. Demetra, Diana, grazie, dee! Invece il mio cavallo non voleva saperne di stare fermo. Buono, buono, Ilex, cara, non mi disarcionare, ti voglio bene. Non ce la facevo più a tenerlo. Ipotetai me ferosingosan, te pizzumus i canumi pempon, e fei messo don besan polufe monagosa. Ipotetai me ferosingosan. Portami a casa, bello. C'era mio padre ad attendermi. Già stava organizzando una battuta per tutto il territorio, arrabbiato, severo, ma... No, non quella volta. Quella volta mi abbraccia felice. Non me lo ricordo. Che faccio qui nascosta? Forse dovrei tornare. Che fare? L'esito del processo, tornare, restare. Aspettare, sì. Se vince, finire subito. Periandro. Licofrone, aiutami! Una melissa di Demetra potrebbe salvare mia figlia. Dai, Licofrone, che ti ricordi il nostro linguaggio segreto? Dai. Il pugnale. Dov'è? La corda è caduta. Dai. Ma che sto facendo? Devo essere impazzita. Diana, cacciatrice, soccorrimi. Sì, devo cercare del cibo. Sì, Melissa, ti serve del cibo, un posto dove passare la notte. Oh, la mia vita. Il pugnale. Dov'è? Di un eroe. La corda. Caduta. Di una madre. Freddo. Aspetta, fa cosa? Tanto freddo, freddo, freddo. La corda. Una Melissa di Demetra. Potrebbe salvare Periandro. Mia figlia. Mi hai dato una morte senza onori, Periandro. Pugnale. Mi hai dato una morte senza onori, Periandro. I panni nel forno freddo. Hai messo i panni nel forno freddo? Periandro, hai messo i panni nel forno freddo? Periandro, hai messo i panni nel forno freddo? Periandro, chi sei? Hai messo i panni nel forno freddo? Da dove vieni? Hai messo i panni nel forno freddo? Da dove hai sei entrata? Hai messo i panni nel forno freddo? Da dove sei entrata? Hai messo i panni nel forno freddo? Hai messo i panni nel forno freddo? Chi sei? Nel forno freddo, non mi toccare. Non mi toccare, mio. Da dove vieni? Da Corinto. Sì, da Corinto, ma sono di Epidauro. E sono una regina, sì. Una regina. Io sono la regina di Corinto. Una regina? Figlia, sorella e moglie di tiranni. Tiranni? Che tiranni? Mio marito è Periandro. Periandro? Il tiranno? Sì, Periandro. Più di due secoli fa. Melissa, tu saresti Melissa. Sì, io sono Melissa. Sì. Sono persino le Melissai di Demetra la emulano. Sì, io sono Melissa, Melissa regina di Corinto. E lui, Periandro, il marito, il tiranno, l'assassino. Periandro, il tiranno, è mio marito. I pani nel forno freddo. Le ha dato una morte senza onori. Che porco bastardo, Periandro, animale! Ma chi sei? Come ti permetti? Chiunque tu sia, non parlare così di mio marito, del re di Periandro. Una vera Melissa di Demetra. Chi sei tu? Che vedi il mio stato appena visibile, sei sicura che nel mio ventre ci sia un figlio legittimo? Per questo mi onori chiamandomi Melissa di Demetra. Io sono... E conosci mio marito Periandro? Sì, Periandro. Proprio lui. E tu lo difendi. E mi aggredisci. Cosa? Come hai detto che ti chiami? Nera. Nera. Io non ti conosco. Anche tu sei moglie, amata e madre. Sì. Sì, ho 4 figli. Allora cosa fai qui? Qui dove? Tu lo sai? Stiamo parlando in carne ed ossa. E tu invece dovresti essere morta. In un altro luogo, in un altro tempo. Io mi sono nascosta appena fuori città. Qui fuori ci dovrebbe essere il mio carro. Ad un certo punto ho visto, ho sentito... Tu. Tu, da dove sei entrata? Non lo so. Non lo so. Mi sono persa, sì. Mi sono persa. Ha fatto spogliare tutte le donne di Corinto e ha fatto un grande falò per lei, ma solo per farsi dire dove era nascosto un tesoro. Ma cosa bisbigli? Niente. Cerco di capire. Siamo fuori quale città? Siamo ad Atene. Qui c'è la mia famiglia. Magari mi hanno assolto. Magari sono morta. Assolto da che? È una storia lunga. Che storia? Una storia di lotta per il potere politico tra mio marito e un certo Apollodoro. Mi accusano te? Ascolta, ci dovrebbe essere una botola da qualche parte. Se la troviamo potremo uscire di qui. Di cosa ti accusano? È per colpire mio marito. Possibile che non ti ricordi come sei arrivata fin qui? Di cosa? Da dove sei entrata? Di cosa ti accusano? Usurpazione di diritti civili. Che diritti hai usurpato? Sono una straniera. Ho sposato un ateniese e anche mia figlia. Le leggi di Atene non lo permettono. Anch'io sono una straniera a Corinto, città di Periandro. Ma come fai a essere innamorata di Periandro? Anche lui mi ama. Non dirmi che ti piace a letto. Che cosa vuoi dire? Quanti figli hai? Sono incinta del 4. E tu? Già incinta. Come? 4. 3 maschi e 1 femmina. Li adoro, ma la femmina di più. Non si dovrebbe mai amare un figlio più degli altri. Ma anch'io adoro Licofrone, lui mi ama più di quanto ami suo padre. Ti piace fare l'amore con Periandro? Com'è Atene? Cerchiamo la botola. Ti piace o no fare l'amore con Periandro? Mi ha sposato. È il mio signore padrone. È signore padrone di Corinto, tutti gli sottostanno. Perché dovrei essere un'eccezione? Comunque lui mi ama. Mi ama. Mi ama come ama il suo popolo, che gli è grato per averlo liberato dall'aristocrazia. Ma io le ho chiesto solo se le piace fare l'amore con Periandro, solo questo. Che cos'è? Non lo so, sono strani rumori. Ho paura. Non so se augurarci che qualcuno ci apra o no. No. Sì. Prima o poi mi sveglierò da questo sogno, mi sveglierò. Credi che io sveglierò. Non esista? Credi che io non sia? Lascia perdere. Cerco di capire dove siamo finite. Non siamo dello stesso tempo. Non so se fuori c'è ancora il mio carro. E poi questi strani rumori. Forse sì. Esistiamo tutte e due. E l'una sta sognando dell'altra. Non mi spaventare. Non voglio spaventarti. Cerco di capire. Anch'io ho vissuto a Corinto. Anche tu come me sei vissuta a Corinto? Sì. La mia giovinezza. Sei nata a Corinto. Cerchiamo la botola. Se la troviamo, magari troviamo anche il mio carro. La botola. Anche il tesoro l'avevo nascosto sotto una botola. Già, quel tesoro. Un tesoro affidatomi da un nostro ospite con il benestare di Periandro. Già, ricordo. La botola. Dov'è? La botola, eccola. Eccola. Dov'è? Scendiamo. No, non mi piace scendere nel buio. Aspettami qui, vado io. Nera? Nera! È scesa. E mi ha lasciato sola con tutti questi vestiti. Questi vestiti in cambio del tesoro. Un tesoro che non basterà a darti pace. Povero Periandro. E Licofrone non ti perdonerà mai. No, non c'è neanche una tunica corta. Mi sentivo così libera, Epidauro, con le mie tuniche corte. Poi... E poi moglie a Corinto. Ora non ho più freddo. No, io sono forte come una cavalla che sopporta il giogo. Ma ho anche il cuore fragile di una cavalla. A che mi serve tanta forza se non ho saputo resistere a un momento di furia di Periandro? La sua gelosia e quel sospetto è insopportabile per una donna fedele e devota. Non dovevo reagire. Non l'avevo mai fatto. Non dovevo. Sono Epidauro. Passeggio sulla spiaggia. E guardo il mare rassicurante del golfo. Lo ascolto. La brezza e la salsedine mi avvolgono e sono libera. Sono Epidauro. Passeggio sulla spiaggia. Guardo il mare rassicurante del golfo. La brezza e la salsedine mi avvolgono e sono libera. Sono Epidauro. Passeggio sulla spiaggia. Melissa. Guardo il mare rassicurante del golfo. La brezza e la salsedine mi avvolgono e sono libera. Sono Epidauro. Passeggio sulla spiaggia. Melissa. Guardo il mare. Sei riuscita a trovare la... No. La botola non ha uscita, è bloccata dalla terra. Terra, terra, terra. Voglio uscire di qui. Stai tranquilla. Il carro. Perché non viene nessuno a dire che succede. Sei stata così Zeus. Coraggiosa a scendere da sola. Stai tranquilla. Mi manca l'aria. Stai tranquilla. Sono sicura che qualcuno ci verrà a prendere. Stai tranquilla. Ci verranno a prendere. No. Ci verranno a prendere. No, non voglio. Venduta, venduta, schiava. Schiava. Ancora schiava, ancora. Ipotetica. Da bambina. Mi sono riscattata. Sono una moglie, una madre come te. Un'altra dote, un altro marito. La mia bambina. Ripudiata. Due volte. Ipotetai. Va meglio. Grazie. E tu? Sei innamorata di tuo marito? Moltissimo. Stefano è un vero compagno di vita. Lui è un buon padre. È l'unico covuomo che amo ancora e che non smette d'amarmi da oltre 20 anni. Hai amato altri uomini? Ah, che mal di testa. Rispondi? Non è tuo marito. Ti ho detto che sono sposata. Mi hai detto che le straniere ad Atene non possono sposare gli ateniesi. Sì, ma le cose stanno cambiando. Se la famiglia del marito... Sei una concubina! Desideravo proprio parlare con una come te. Le concubine di mio marito mi hanno rovinato e mi imbatto in una concubina. Di che ti preoccupi? Non sono del tuo tempo. Non ho mai avvicinato Periandro né potrò farlo. Se hai avvicinato me potrai avvicinare anche lui. Sei tu che mi hai avvicinata. È inutile che voi concubine cercate di inaneggiarci. Ma non sapete che noi mogli restiamo comunque le più favorite, le più amate, le uniche garanti della discendenza. Già, della loro discendenza. E la nostra. Non è assurdo che tu che partorisci i tuoi figli del tuo sangue, non ne sei consanguinea. È questa la giustizia degli uomini. Se non ci fossero concubine non ci sarebbero figli illegittimi. I figli sono dei padri, non delle madri. Atene in persona ha assolto Oreste dal suo matricidio. Questa è la giustizia degli dèi. Gli dèi. Gli dèi combattono tra loro. E ora prevale uno e ora l'altro. E quello che era giusto ieri non è più giusto oggi. E forse sarà di nuovo giusto domani. Ciò che fanno gli dèi è sempre giusto. È lo stato delle cose. Lo stato delle cose? Ma tu... Tu... Non ti sfiora mai l'idea di poter scegliere, desiderare. Sei riuscita a sposarti, ma resti sempre una concubina. Sì, per mio marito, che non ha bisogno di concubine perché io continuo ad essere solo per lui la più grande cortigiana che abbia mai incontrato. Ma smettila, smettila di vantarti. Non ti sembra piuttosto una vergogna? E non ha bisogno di concubine perché mi ama. E lo dimostra il fatto che mi ha sposato contro ogni regola. Gli uomini hanno sempre bisogno di altre donne. I tiranni hanno schiere di concubine. Quando un uomo mette a rischio la propria carriera sposando una cortigiana, è perché l'ama. Noi siamo una coppia d'amore. Che sfrontatezza hai di parlare d'amore proprio tu. Non sono stata fortunata come te. Forse anch'io sono figlia di re. Ma non lo saprò mai. Io sono solo nera, ma sono, a differenza di te, che non sei. Tu non sei una donna, tu sei il mio incubo che continua. Tu non hai mai una tua opinione, non ti interroghi mai su niente. Pensi che non ti spetti, che solo gli uomini possano farlo. Il silenzio è l'ornamento delle donne. Secondo la tua logica, gli schiavi nati schiavi dovrebbero accettare la loro condizione. Sarebbe contro natura il desiderio d'essere liberi, perché la libertà è qualcosa che non hanno mai conosciuto. E i racconti dei padri liberi e dei padri dei padri. Mio padre maltrattava mia madre. Mi hanno calunniata. Le concubine l'hanno reso pazzo di gelosia. Perché? Sai dirmelo tu che sei una di loro? Dimmelo, dimmelo, avanti. Dimmelo. Sono moglie e madre come te da più di 20 anni. Sai dirmi perché nessuno ci crede nonostante l'evidenza? Me lo sai dire? Me lo sai dire tu, regina di Corinto? Il destino delle donne dipende dagli uomini a cui appartengono. Devi parlare meno se vuoi essere una brava moglie e madre. È lo stato delle cose. Devi accettarlo. Devi accettarlo. Devi accettarlo. Aspettati una condanna. E forse m'è già arrivata. Dobbiamo uscire di qui subito. No, ho paura. Cosa c'è fuori? Qualunque cosa ci sia. Aspettiamo, aspettiamo ancora. Vieni, mi piace parlare con te. Non ho mai parlato tanto in vita mia. Dimmi di Periandro. Perché ha creduto a quelle concubine, a quelle pettegole volgari? Smettila. Non ti offendere. Smettila, Melissa. Ascoltami bene, Melissa. Da bambina sono stata comprata dalla tenutaria di un bordello. Per fortuna il più rinomato di Corinto. Poi ho pensato ai miei figli esattamente come te. Sin da bambina? E pretendi di essere una moglie rispettabile solo perché sei riuscita a sposare un ateniese? Sì. Voglio il meglio per i miei figli, come tutte le madri. Ho voluto cambiare una vita che non ho scelto. Perché non riesci a capire? Tu ti sei sposata solo perché non avevi più l'età. È quello che tentano di fare tutte le concubine con i loro sporchi raggiri. Io sono libera, colta, ricca. Non ho bisogno di un uomo. Per questo ha creduto a loro e non a me. Per questo. Non c'entrano le concubine. Tuo marito è una belva setata di sangue. Basta! Ti ucciderà. Abuserà di te quando sarai morta. Cosa? Abuserà di te quando sarai morta. Come? Abuserà di te quando sarai morta. I panni nel forno freddo. Un lupo mi sbrana. Beve il mio sangue. Ed entra in me come se dovesse lacerarmi ogni volta. Un lupo mi sbrana, beve il mio sangue. Entra in me come se dovesse lacerarmi ogni volta. Un lupo mi sbrana, beve il mio sangue. Entra in me Melissa, come se dovesse lacerarmi ogni volta. Un lupo mi sbrana, beve il mio sangue. Chi sei? Mi hai lavata e rivestita tu. È un po' che lui non lo fa. L'ultima volta si è dimenticato di rivestirmi. Ho avuto tanto freddo. Ti lavava e ti rivestiva dopo l'amore? Sì. E prima? Prima, non lo so. Chiudevo gli occhi. Come ti è successo adesso? Il suo sguardo. Chiudevo gli occhi. E poi? E poi l'incubo, sempre lo stesso. Lui Lui mi svegliava, mi rivestiva e mi ricopriva. A volte era la mia Parmenide a svegliarmi in una tinozza d'acqua calda. Mi copriva di baci, di carezze. Mi faceva ridere. Anche la mia ancella si chiama Parmenide, ma non ho mai fatto il bagno con lei. Forse mia figlia ha ragione ad accusarci di volerne fare una moglie. Non sapere mai dove è suo marito. Ricevere le sue visite solo quando è feconda. Non poter condividere nulla con lui. Neanche il letto. Non avere nessuna autonomia, nessun diritto civile. Lei vuole sposare un uomo che ama. Come te. Lasciala libera di scegliere. Continuiamo a parlare, ancora non abbiamo capito cos'è successo. Sembra lo stesso posto dove mi sono nascosta. Guarda quell'apertura. Quell'apertura in alto c'era. Quell'apertura? Non lo so. Possiamo uscire da lì. Ma non sappiamo cosa c'è fuori. Sappiamo cosa c'è dentro. Morte. Morte. Usciamo. Aspetta. Ma l'hai detto tu che qui non c'è altro che morte. Sì. E di là al massimo quello che possiamo trovare è l'orrore. Io l'orrore lo conosco. Sì, lo conosciamo. Ma che aspettiamo allora? Che arrivi Parmenide a svegliarmi. Andiamo. Sì, andiamo.